Radio 24 presenta Platone, la caverna dell'informazione di Leonardo Manera. E allora benvenuti a Platone, la caverna dell'informazione, prima puntata di questo che è un programma di approfondimento sui fatti principali della settimana. Ce ne occuperemo, ma non sono solo, io sono Leonardo Manera, non sarò solo a occuparmi appunto di questi fatti, di notizie della settimana, ma con me c'è una voce storica di Radio 24 che è Alessandro Milan. Buongiorno Alessandro. Storica, grazie. Ciao Leonardo, eccoci qua. Tu quando hai iniziato Radio 24? Il giorno in cui è nata Radio 24, quindi 4 ottobre 99. Sei una voce storica anche un po' anziana ormai di Radio 24. Vecchia, sì. Mi è cresciuta la barba. E allora proprio per omaggiarti in quanto voce storica appunto di questa radio abbiamo preparato per te una sigla. Milan, Milan, sempre con te. Fatto, basta. Questa era la sigla. Non è una sigla insomma particolarmente impegnativa, nuova. Però è adattabile a tutti i programmi di Radio 24 e a tutti i conduttori anche di Radio 24. Per esempio Giannino sempre con te. Il tono era più da Giannino. Era da Giannino. La voce che avete sentito invece è di Danilo Vizzini, che è qui con noi. Salve a tutti. E ha il compito di preparare una canzone per la fine della puntata. Non sappiamo ancora cosa farà, siccome non ha un repertorio molto. Non lo so nemmeno io. Ecco, lui non ha un repertorio praticamente. Allora, proprio zero. Zero. È una persona anche dal punto di vista artistico molto discutibile. Però utilizza il tempo della puntata per scrivere una canzone. Ci riuscirà? Non lo sappiamo. Ma veniamo al cuore, al cuore del programma. Abbiamo detto che ci occupiamo noi di notizie che hanno caratterizzato in senso diciamo più o meno stretto la settimana, cominciando Ale da... Parliamo un po' del Papa, che ha avuto tra l'altro... Il Papa è sempre di attualità. Tra l'altro in settimana avrà avuto qualche problema con le guardie svizzere dopo la partita. Vabbè, certo, sì, con l'incolumità. Comunque il Papa, sai che di recente è andato in Calabria. Era una battuta di Alessandro Milan quella. Facciamo la sigla per Alessandro Milan. Milan. Basta. La prima e l'ultima di Platone per quel che mi riguarda di battuta. Tra l'altro, parentesi, con questa sigla ci siamo giocati tutti i tifosi non del Milan. Sì. Diciamo sì. Che poi faremo anche altre squadre. Non siamo necessariamente tifosi del Milan. No, cioè no, io no. E Alessandro Milan sì, però è un caso, diciamo. Non assolutamente. È vero. Ci siamo giocati tutti gli altri tifosi, non è vero. Siamo qui anche per voi. Parlavamo di Papa. Il Papa sa che di recente è andato in Calabria e ha scomunicato i mafiosi. Proprio una scomunica totale. Ha detto siete fuori dalla chiesa. Quindi. Gli ha lanciato un anatema. Esatto. Noi siamo una trasmissione anche culturale, lo sapevi? Vogliamo anche dimostrare che vogliamo anche fare cultura qui a Platone, la caverna dell'informazione. Platone. E quindi diciamo qual è l'etimologia di anatema. Anatema, dal greco anazema, esposizione, derivante dal verbo anatitemi, ana sopra, tizemi, porre. In origine, dunque, designava l'oggetto o l'uomo posto in un luogo sacro come dono votivo, per cui diventa consacrato, cioè separato dalla sua valenza usuale. Spesso il dono era destinato agli dei infernali, per cui veniva considerato negativo, malefico ed esposto alla pubblica maledizione. Con questa etimologia abbiamo perso 600.000 spettatori. Ne avevamo 601.000, però insomma è sempre meglio iniziare con le cose anche un po' più pesanti, così poi si può andare su quelle più leggere. Certo. Parlavamo di Papa. Allora, dopo l'anatema e dopo la scomunica del Papa, c'è anche l'arcivescovo di Reggio Calabria, l'arcivescovo Monsignor Morosini, ha lanciato una proposta a Papa Francesco, cioè facciamo una moratoria per 10 anni dei padrinati di battesimi e cresime, perché attraverso questi padrinati, il classico padrino. Esatto. Quindi sospendiamo per 10 anni il padrinato, esatto. Anche perché i padrini probabilmente sono in galera, non ci sono per 10 anni, hanno avuto questa pena 10 anni, quindi... No, perché attraverso questi strumenti sacri, il battesimo e la cresima, si cementano in realtà i rapporti mafiosi. E se un bambino per esempio è genitori mafiosi deve andare da solo, così forse col padrino si libera dallo stato di mafioso, no, non lo so. E allora noi vogliamo capire se effettivamente c'è questo sentimento comune, questo sentire comune nei confronti della mafia e dei mafiosi, e siamo andati a chiedere a delle signore che abbiamo incontrato per strada se sposerebbero un mafioso. Sentiamo quello che ci hanno risposto. Lei sposerebbe un mafioso? Perché no, sei una brava persona. Lei sposerebbe un mafioso? No. Neanche se fosse innamorata? No, sei so che è mafioso, se non lo so, allora guarda l'amore. Sposeresti tu un pregiudicato, un mafioso, un malvivente? No. Perché? Potendo scegliere prima no, se poi lo scopro dopo è un altro discorso, però potendo scegliere no. Però scoprendolo dopo lo terresti? Non credo. Non credi, però se lui fosse ricchissimo? No, non credo. Tu sei un po' innamorata. Per l'amore ci penserei. Magari sei già incinta. Mamma mia, che sfiga, sarei proprio sfigata. No, non credo, credo proprio di no. Quindi? Quindi lo lascerei. Viene prima l'onestà? Sì. Sei sincera? Sì. Bugiarda. Lei sposerebbe mai un mafioso? Ma dipende, se mi farebbe fare una bella vita, può essere. Allora, lo ridica che così ce ne facciamo una ragione. Lo sposerebbe se? Se mi farebbe fare una bella vita, sì. Allora, come vedete, questa ragazza non esclude il mafioso, ma esclude il congiuntivo. E in effetti è così. Però noi siamo una trasmissione anche di un certo peso qui, Platone, siamo una trasmissione importante, allora abbiamo un ospite importante proprio per parlare di lotta alla mafia. Abbiamo con noi il ministro dell'interno Angelino Alfano. Buongiorno a tutti. Ma prima di parlare di mafia mi deve consentire che voglio precisare che noi del nuovo centrodestra, di cui lei è segretario, di cui sono segretario, siamo un partito nuovo, libero e indipendente, che in nessun modo dipende dalle scelte di Silvio Berlusconi. Questo è giusto precisare. Comunque, Alfano, noi l'abbiamo invitata per parlare di lotta alla mafia, che è l'argomento cui ci stiamo occupando, insomma. Certo, dottor Manera. Prima però voglio dire che il nuovo centrodestra non si colloca dove si colloca il partito di Silvio Berlusconi, che peraltro si colloca nel centrodestra come voi. Esatto, però abbiamo delle cose diverse. Va bene, ma oggi lei è qui in veste di ministro dell'interno. Certo, ma sono anche il segretario di un partito, il nuovo centrodestra, che ha un programma completamente diverso da quello di Silvio Berlusconi. Noi vogliamo la riforma della giustizia ora. Anche Berlusconi. Noi vogliamo sgravi per le imprese. Anche Berlusconi. Noi in Europa vogliamo un'Italia più forte. E anche Berlusconi. Vabbè, allora me ne vado. Se lei mi chiama qui per parlare di mafia e poi mi fa parlare solo di Silvio Berlusconi, lei è scorretto. È Berlusconi. Evidentemente per lei Berlusconi è un'ossessione e non è in grado di parlare dei veri problemi del paese, dell'Italia, come quali la mafia. Che arrivederci. È Berlusconi. Grazie al ministro Alfano. Sì, ministro, grazie. Sì, vediamo che insomma, l'ha presa bene, si è prestato. Benissimo, alle nostre domande. E infatti siamo ancora qui a Platone, la caverna dell'informazione, che è un programma che si occupa di commentare l'attualità, le notizie d'attualità, ma è anche vero che siamo in estate, quindi prima di riprendere a occuparci appunto di tutto quello che ha caratterizzato la settimana, i fatti della settimana, vogliamo anche lanciare un piccolo gioco estivo. Noi vi faremo sentire una canzone e voi che ci ascoltate dovete individuare qual è la parola sbagliata in questa canzone, che è stata appunto ricantata da una nostra amica. Allora vediamo se riuscite a capire qual è l'intrusa, la parola intrusa in questo pezzo di canzone che è cantata a cappella, senza musica. Vediamo. Lo stupore della notte spalancata sul mare. Lo stupore della notte spalancata ci sul mar. Ci sorprese che eravamo. Carboidrati, io e te. Eccola qui, questo era il pezzo di canzone. Fra tutti quelli che riuscissero a capire qual è la parola intrusa, noi sorteggeremo come premio. Potete mandare una mail qui a platone@radio24.it. Potete mandare una mail e poi noi sorteggeremo uno fra di voi che vincerà qualcosa. Ancora non abbiamo capito cosa, Ale, però. Infatti, che cosa? Un premio ci sarà. Io ho un sospetto sulla parola, però non posso dare suggerimenti. Non dobbiamo dare suggerimenti. No, assolutamente no. Ci dicono che forse, però, fra tutti quelli che telefonano, sorteggeremo in premio una confezione di spaghetti. Questo per dare un aiutino ulteriore. Siete dei bambocci. Ma torniamo a occuparci dei fatti della settimana con Alessandro Milan, giornalista, insomma, di spessore. Era un complimento che ti volevo fare. Io mi sono fare. Bloccato sullo spessore, come mi sono bloccato. Allora, cosa è successo di importante in queste settimane? Per esempio, si è parlato molto di Veneto. Del Veneto si è parlato molto, sai, gli arresti, è stato arrestato il sindaco di Venezia, poi è stato condannato, ha patteggiato, poi però i giudici ricorrono contro il patteggiamento. E poi c'è la vicenda di Galan. Sì, sembra che le cattive abitudini non finiscano mai, dai tempi di Tangentopoli, in realtà poi anche prima, però insomma tornano sempre queste caratteristiche. Ma lo sembra, siamo garantisti. Però insomma, Galan che ha fatto tra l'altro una lunga intervista al Fatto Quotidiano, una confessione, no? A Marco Travaglio, e a un certo punto si è sfogato soprattutto contro la sua ex segretaria. Chi è? Si chiama Claudia Minutillo. Claudia Minutillo. Minutillo. Com'è di corporatura questa Minutillo? No, infatti stavo pensando allo spessore di prima, ma non lo vedi che mi sono trattenuto, non l'ho fatto. Allora, dice Galan della sua segretaria Minutillo. Ma dice a un certo punto, se Minutillo mi dicessero esprimi un desiderio vorrei 30 minuti di assoluta impunità chiuso in una stanza con la Minutillo. Per fare cosa? Non questo non lo dice, no. Non lo dice. Tu hai qualche idea o... No, per carità, non ho idee di quello che vorrebbe fare Galan con la sua ex segretaria, però è molto arrabbiata. Ma tu l'hai vista la Minutillo? La Minutillo c'è in foto. Com'è questa foto? Minutillo dal punto di vista estetico? Ha dei bei capelli neri corvini, vedete degli occhi il classico molto uomo intensi. Falso che guarda i capelli, le mani, gli ma occhi. No, perché la foto è a mezzo busto. No, perché avendo detto lui voglio stare con la Minutillo mezz'ora, si suppone che... Galan l'ha detto, eh? Galan. Alessandro, sì. Milan, come sei preparato? Quasi quasi mi eccito. Oh, parlando di Minutillo, vengono questi argomenti anche insomma di eccitazione generale. E noi vogliamo anche sentire l'opinione degli ascoltatori. È vero, abbiamo gli ascoltatori. Pronto, buongiorno. Pronto, chi è l'apparecchio? No, chi è l'apparecchio? Lei, scusi, ha chiamato Radio 24. Chi è? Sandro, Milan? Sì, sono... quello del Milan? Sì, sono del Milan. È Milan? Sì, sono Milan. Posso parlare? Sì, c'è qualcuno che mi sente? Prego, sono tutti. Sono collegato all'apparecchio? Sì. Mi sentite tutti? Sì, benissimo. Io sono agente di commercio, allora vi ascolto sempre quando sono in macchina. Allora, cosa dobbiamo parlare, Mila? Noi stavamo parlando di Galan, mi sembra, dal suo accento che... Perché anch'io sono dal Veneto, da Cavaillon Veronese. Ecco, perfetto. Che ne pensa? Penso che... No, sei Mila, sono in Radio sì, 24. Sì, siamo sempre a Radio 24, sono sempre Mila. Sì, qua che fa, rassegna al mattino. Sì, adesso andiamo avanti però. Allora, perché tutti quei i politici no? Hai capito quello che ho detto, Mila? Insomma, non ho capito se c'è un'interferenza. Mi auguro che Correnzi cambia le cose, perché tutti i politici della vecchia generazione, non ce n'è uno che mi piacciono. No, nessuno. A partire da quello, come si chiama, dei radicali, Marco Pannella. Quello che vuole la droga libera, la Mariana libera, no? Marijuana, sì. Continua a fare i scioperi della fame, quella che dimagrisce la Emma Bonino. Sì, in effetti è abbastanza male. O anche l'altro, quello, come si chiama, quello della sinistra, Nicky Vendola. Quello che vuole il matrimonio tra omosessuati. No, sì. Non capisce Nicky Vendola che due omosessuali che possono stare insieme tutta la vita senza sposarsi non è un danno, è un beneficio, è un colpo di culo. Hai capito, Mila? Sì, vabbè, ho capito. Mila, mi capisci, Mila? Ho capito, però a parte che Radio 24 è Vendola, peraltro. Ma era meglio quando c'era Berlusconi, perché Berlusconi era più trascinatore. Guarda come ci ha trascinato Berlusconi, non ci ha trascinato nessuno. Ah, dice. Perché faceva, andava dai pompieri, metteva cappello da pompiere. Andava dai cuochi, metteva cappello da cuoco. Andava dai carabinieri, metteva cappello da carabiniere. Ha fatto una bella serie cappellate, no? Ecco. Allora io voglio chiedere se la situazione in futuro, non so se c'è qualche ospite da voi che può cambiare. Perché noi agenti del commercio e tutti i lavoratori italiani non ne può più di questa situazione. Non hai capito, Mila? Ho capito, abbastanza chiaro. Sì, Radio 24 che sì, fa la segna mattino. Sì, quello del Milan. Sono Milan. Allora, io voglio che qualcuno... ho finito. Vabbè, basta, la ringrazio. Grazie molte, devo dire che ha messo anche giù il telefono. E vabbè, caro Leonardo. Non era molto chiaro, non si capiva bene, però abbiamo capito che ce l'aveva con i vecchi politici. Questo politici, sì, con alcuni vecchi politici. Di una volta, insomma, che poi tra l'altro, insomma, il povero Pannella, se c'è uno che mai è stato inquisito per questioni legate ai soldi è stato Marco Pannella. Questo è vero. Ma invece noi, proprio per parlare delle cattive abitudini della politica, abbiamo con noi un ospite importante, abbiamo... l'onorevole Di Pietro, che è stato PM ai tempi di Mani Pulite. Buongiorno Di Pietro. Buongiorno a voi. Ecco, le cattive abitudini rimangono. E certo che rimangono, anzi peggiorano. Quando c'eravamo noi del team di Mani Pulite, sapevamo che metodi utilizzare per fare confessare politici e imprenditori. Ah, questo è interessante, quali metodi usavate? Il metodo del bastone e della carota. Una carota e 50 bastoni. E alla fine funzionava. Sì, nel senso che usavate, non è una cosa bella quella che ci sta dicendo, usavate veramente la violenza. Ma naturalmente no, avevamo altri metodi che io definisco bastone, ma erano più di persuasione psicologica. Quindi persuasione psicologica in cosa consistevano? Allora, farli rimanere in ginocchio per un giorno intero sulle puntine arrugginite. Ecco. Eh? È una bella... Oppure farli camminare avanti e indietro, a piedi nudi, su un pavimento pieno di pizze appena sfornate. E poi li obbligavamo anche a mangiare le stesse pizze. E quindi, non proprio direi persuasione psicologica, sembrano metodi anche abbastanza violenti. Guardi, come diceva il proverbio, non si può fare la frittata senza la gallina che ci lascia lo zambino. Ecco, se l'imputato è imputato, vuol dire che qualche cosa ha fatto, altro che avviso di garanzia. E allora bisogna trovare il metodo per farlo confessare. Ecco. Posso chiedere qual è il metodo più violento che avete usato? Vabbè, visto che sono passati tanti anni, lo posso confessare. E mi sento anche di chiedere scusa pubblicamente agli imputati che l'hanno seguito. Allora, noi prendevamo l'imputato, lo legavamo a una sedia in una stanza vuota, poi arrivavo io e andavo avanti per tutto il giorno a coniugare al congiuntivo tutti i verbi della lingua italiana secondo la mia opinione personalissima. Alla fine l'imputato non ne poteva più e confessava. Secondo lei questo metodo funzionerebbe anche oggi? E certamente sì che funziona. L'importante è usare il bastone e la carota. Ma più bastone che carota ci vuole, secondo me, di questi tempi, perché siamo uomini e non conigli. Quindi la carota. Allora, ringraziamo per essere stato con noi l'onorevole Di Pietro, che ci ha dato una sua opinione personale, anche Alessandro. Anche confessato gli strumenti, grazie. Sì, insomma, aveva sempre negato lui di aver usato metodi violenti. E invece, vedi, a Platone per la prima volta. E invece scopriamo che non è così, insomma. Però noi vogliamo proseguire, perché lo dicevamo all'inizio di questo seconda parte di Platone, siamo in estate e quindi abbiamo un inviato che va qua e là a vedere cosa succede per le spiagge d'Italia. Pronto, Ratko? Ma buongiorno, ma che felicità, con bagni con piedi dentro acqua, di questi bellissimi bagni. Oh. Dove si trova, Ratko? Allora, tu mi avevi mandato a Forte dei Marmi, no? C'è sì. stato piccolo problema, hanno detto che Forte dei Marmi e Ratko non poteva entrare, perché ho detto che questa non è spiaggia per sue tasche, mi hanno detto, va bene, però vostra sabba sta dentro le mie mutande, e questo non capisco. Però non ho voluto fare polemica, sai come, allora ho spostato... 5 chilometri dopo è uguale, mare uguale, sabbia uguale, tutto uguale, anzi ti dirò di più, corrente va da dove sono io, che spiaggia di Cinquale, capisci? Cinquale che è una... poi corrente da là porta a Forte dei Marmi, allora cosa faccio? Io bevo tanta birra, piscio in acqua e va tutto a Forte dei Marmi, così imparano. Comunque diciamo che Cinquale è a metà strada fra Viareggio e Forte dei Marmi, è una località un po' meno nota, meno alla page, però è sempre, fa parte sempre di quella fascia costiera bella. Stessa spiaggia, stesso mare, uguale, tutto, troppo anche stesso, perché è bello, sai, unica cosa è che hai sempre... sdraio, ombrellone, asciugamano, tutto uguale anche di colore, uno se fa 10 metri fare una passeggiata, torna indietro, non trova più il suo posto. Io questa mattina ho girato 3 ore per trovare mia cacchio di sdraio, capisci? E dopo dicono, voi Rom siete nomadi, non è che noi siamo nomadi, che vostra cacchio di spiaggia non si trova mai posto. Però insomma, il posto è bello. È bello, però no, grazie, non voglio elefantini, scusa Manera, questi che passano. Sono i venditori ambulanti, gli ambulanti. Molto ambulanti, è bello, tutto è bello, unica cosa che non c'è una poca di rilassatezza, uno viene qua a passare tranquillo dopo un anno di lavoro, cioè non è caso mio perché non faccio niente la mattina e sera, però uno italiano che viene qua a fare ferie così, invece non puoi stare tranquillo, perché voi italiani in spiaggia fate di tutto, giocate calcio e bocce e tennis con racchette di legno come quelle per polenta che fanno uno casino quando picchia paletta e ping e pong. Voi litigate, perché voi per una cazzo di partita litigate, punto fuori, punto fate uno casino che non finisce più. Ma capisci? Ma allora io, povero Rom, mi chiedo, dopo un anno di lavoro, o quasi lavoro, sì, va dopo bene, un anno di lavoro, dove vado io? Se tu giochi a tennis in spiaggia, cosa faccio io per rilassarmi? Affitto uno campo di tennis e ci metto asciugamano e ci prendo sole? Sì, le ricordo, Ratko, che lei... Scusa un momento, non voglio cocco, grazie. Scusa, perché Ratko, qua adesso spiaggia bella, è bella, però... Ratko, lei è qui per lavorare, per fare i suoi reportage alle spiagge d'Italia, per dirci com'è l'estate italiana, insomma. Beh, non è lì per godersi la spiaggia. Bene, però devo anche godere per capire. No, grazie, non voglio tappeti. No, scusa, un momento, adesso spiaggia è bella, però questi stranieri hanno rotto un po' cazzo. Io adesso per usare una perifrasi. Non è possibile. Se io sto un'altra ora in questa spiaggia, io voto per Lega Nord. Non voglio niente, grazie. Non è possibile. Tu non hai 5 minuti di pace, e prima passa uno che vuole vendere elefanti, e dopo passa quello che vuole vendere orologi, e quello accendini. Coco! 200 sono passati a vendere cocco, non è neanche senso del business, che cazzo. Allora, fa che uno vende cocco, uno vende gallina, uno vende lampadine, se non mi serve quello compro quello. No, tutti cocco vendono, tutti cocco, non è possibile. Senta, quindi il messaggio che può dire, che può darci qual è, che dal suo punto di vista... Che stranieri va fuori de spiagge, resta in Italia, ma devo stare tranquillo, spiagge detto uguale. Da uno straniero, da un rom ci fa un ma po'... Ma che, ma ho capito io, non è, vai via di spiaggia, dici, vai, faccio giro città, no... Arrivi a semaforo, uno te lava vetri. Ma che cazzo lavi vetri? Ma non vedi che macchina è rubata? Ma cosa lavi vetri? Vai al ristorante uguale, vai con tua donna, vuoi stare tranquillo? No, arriva signore con fiori, prego signore, compra rose per tua donna. Ma non voglio fiori, non vedi che è ancora viva? Allora, via, basta, fuori, stranieri da Italia. Questo è il messaggio de... di Ratko, di Ratko che Ratko ci lascia, ci sta mandando, insomma. Non vedo ora di finire qua, andare a lavorare in fabbrica, che mi rilasso uno poco. Ratko, noi ci risentiamo più tardi, speriamo che intanto trovi un posto veramente un po' per rilassarsi e andiamo avanti. Grazie a Ratko. Voi, grazie. Platone, siamo ancora qui con Alessandro Milan e Danilo Vizzini. Ale, prima stavamo parlando del Veneto, di quello che è successo in Veneto, abbiamo avuto ospite Di Pietro e abbiamo letto anche l'intervista, una parte l'intervista a Galan. Sì, mi ha colpito un'altra parte, quella in cui Galan se la prende sempre con i suoi accusatori, no? Che sono, come detto, Claudia Minutillo. Io voglio conoscere questo Minutillo. Quanti anni può avere, secondo te, la Minutillo? Adesso, di una donna è sempre scortese, ma mi pare di aver capito che sia sui 50 anni. È troppo giovane per me. Io preferisco la donna anziana, perché la donna anziana crea meno ansia da prestazione. Ah, perfetto. La donna giovane si aspetta molto, la donna anziana è più accogliente. Ma secondo te anziana cosa vuol dire? Sopra i 75-80. Sopra i 75-80. Io cerco la donna ottantenne. Scrivete a Platone, @radio24.it, perché chi si vuole candidare per Leonardo Manera. Io voglio insinuarmi nelle pieghe della pelle plissettata della donna ottantenne. Vabbè. Un'immagine spiacevole. È un'immagine discretamente spiacevole. Comunque... Che superficialità, che approssimazione. Direi che è inutile negarlo. L'editoriale è perfetto. Allora, dicevamo, Galan se la prende. Voglio e dice... la Minutillo, un rapporto con la Minutillo, però adesso mi ha anche citato. Adesso, guarda, adesso infatti ti dico un particolare della Minutillo che ci dice Galan. Intanto dice Mazza Curati, che è un altro che accusa Galan, mi fa girare i coglioni, lo dice Galan, perché sì, è su una spiaggia della California. Ecco. E poi dice, e guardate la foto della Minutillo su WhatsApp, in barca, che si fa la doccia. La fai vedere anche a me questa foto? Eccola qua. Vediamola adesso. Guardala descrivere bene. Scrivere una foto per radio è difficile. Però insomma devo confermare. Ma se è su WhatsApp, perché maneggi la carta? una persona di WhatsApp un po' cartacea. È un'app che ti materializza direttamente la foto in cartaceo. Hai capito? Ti piace la foto dunque? Io la Minutillo devo dire che comincio a sognarla anche fisicamente. Comunque, eccola qua la foto della Minutillo, vera. La Minutillo, vera, aspettate carta, che la guardo su carta. La Minutillo, vedi che capelli corvini come beh, è una bellissima cinquantenne, devo dire. Una tigre del materasso. No, assolutamente no. Smentiamo. Secondo me, la Minutillo è una vera tigre del materasso e le perdonerei ogni cosa. Ma pensando alla Minutillo, mandiamo la nostra rubrica. Il carrello dei bolliti. Se ero ancora ministro della difesa, uno come Galan gli dichiaravo guerra e la portaerei l'avrei chiamata Minutillo. Era meglio quando si stava peggio, caro mio. Ma era meglio quando c'era mia nonna che mi preparava d'estate i tortellini in brodo che avevano anche il sapore dell'Europa Unita. E me li ricordo, quei tortellini che erano grandi, grandi come un euro. Ah, l'euro. Ma quale euro? Galan bisognerebbe pagarlo con la giusta moneta, il nerbo padano. Allora qui si fanno i conti senza l'oste. Allora, Podi ha preso i tortellini, Bossi il semolino, D'Alema risotto in bianco Allora, qui i conti non tornano. Il caso Galan è una lotta contro le ammucchiate politiche, che ricorda le mie battaglie contro la partitocrazia, contro lo sterminio per fame, PC, P2, P38, la TAV, il MUOS, il MOSE, contro gli OMG, contro il bipolarismo, contro le privatizzazioni. E comunque, il coperto non lo pago, che sono 3 mesi che non mangio un cazzo. Le visite sono finite, i parenti fuori da qui. Allora, mi faccia finire con il conto e dopo torniamo nelle nostre stanze, d'accordo? Questa era la nostra rubrica Il carrello dei bolliti. Sono i politici classici di una volta che un po' rimpiangiamo, Ale. Eh sì, li rimpiangiamo. Perché davano tanto materiale, insomma. Esatto, li rimpiangiamo da quel punto di vista. Chi li conosce, quelli del Movimento 5 Stelle? Pochissimi ne conosciamo. Abbiamo imparato un po'. Chi li conosce, i nuovi del nuovo centrodestra? Dimmi. Prima abbiamo avuto Alfano. Sì, uno, poi gli altri non li conosciamo. Chi li conosce i nuovi di Forza Italia? Ci sono nuovi in Forza Italia? Nuovi, insomma, no, c'è Silvio Berlusconi. Tutti quelli del Partito Democratico nuovi, tutti il gruppo di Firenze. Beh, dai, un pochino si conosce. La casta fiorentina, il Granducato di Toscana, si esatto, dice, no? Esatto, dicevano così, sta diventando Roma il Granducato di Toscana. Dimmene 5 così al volo. Boschi, Bonafè, Lotti. Lotti sottosegretario, sì. Bonifazi, li ho letti di recente sui giornali. E poi quattro. Richetti è bravo. Cosa fa Richetti? Richetti era il presidente del consiglio regionale dell'Emilia Romagna, è diventato onorevole, è un bravo onorevole. Vedi, tu sei preparato, ma hai iniziato con la Boschi. Con la Boschi. Che rappresenta il tuo sogno erotico. No, è inutile negarlo. No, dai, è ministro. Sei innamorato fisso della Boschi. Innamorato, non penso ad altro, lo confesso. Penso ad altro da mani a sera. Ha quei bei completini sobri. Ma sempre fa queste sfilate, ha sempre tanti fotografi al seguito. Lei ama molti colori accesi. Sì, non ho mai capito se è colpa sua per i vestiti o colpa dei fotografi che le rompono un po' le palle. Secondo te di che colore ha i completini intimi la Boschi? Dai, tu che hai la tessera dell'ordine dei giornalisti. Quindi dovrei sapere queste cose, no? È la prima domanda che ti fanno all'esame dei giornalisti. La Boschi. Il reggiseno Leonardo della Manera, è evidente che hai bisogno di prendere aria. Esci e fatti una passeggiata. Sì, avrei bisogno di prendere qualcos'altro in realtà. Parlando della Boschi. Allora, no, proseguiamo con la nostra trasmissione. E adesso dovremmo procedere, però sentivo che c'era una telefonata. Pronto, sentite? Sì, sì. Pronto. Ratko. Amici, scusate se interruzia, sono Ratko. Ho un piccolo problema, mi trovo commissariato de Forte de Marmi. Sì, vicino a Cinquale. Non aveva commissariato Cinquale, mi hanno portato qua. Una piccola incomprensione. Poliziotto ha detto che potevo fare una telefonata, allora ho chiamato voi. Sì, cosa è successo, Ratko? Ma niente, una cagazia, niente. Cagazia? Sì, una piccolezza. Diciamo che mi hanno accusato de furto. Cioè, che cosa ho rubato? Ma niente. È successo stamattina, è andato a spiaggia con famiglia. Andato dove bella spiaggia, bagnino, mi ha dato 2 sdrai, uno ombrellone, uno lettino, fa quanto è, fa 40 euro, mi pareva uno buono prezzo, anzi io ho detto, ho lasciato 50, ho detto ma sì, tieni 10, il resto spende come vuoi con ragazze facili, che tanto così. Sì, ho fatto non una è bella proprio... Sì, passato là, bella giornata, finito con voi il primo collegamento, preso tutto, preso lettini, preso sdraio, ho messo su macchina e sono partito via, andato via di spiaggia, fatto neanche 2 chilometri, sento che arriva macchina di polizia con sirene, arriva là, fa accostare, arriva poliziotto col mitra, mi fa, signore buongiorno, fa scusi scenda, fa per piacere se ci vuole gonfiare questo palloncino, ho detto amico dov'è il problema, ma se vuoi io ti faccio anche cagnolino, ho detto con palloncino maschilino. Era l'alcol test. Era l'alcol, vabbè, cosa vuoi. Torno dopo 5 minuti, neanche 2 minuti, fa, signore c'è uno grosso problema, ho detto, ma che è morto cagnolino? Fa, che cagnolino? Fa, lei è stato accusato di furto, di sdraio. Ho detto, che furto? Ehi, amico, che furto? Ma io ho pagato 40 euro questa, ho anche lasciato 10 euro di mancia. Certo. Fa, no, guardi che fa. 40 euro non era per comprare, era solo per affitto. Certo, di una per poter giornata. Usufruire del bene. Ma che usufruì 40 euro per mettere il mio bello culo per qualche ora su quella sdraio? Ma non esiste, ma certo che è uno furto, è uno vostro furto. E insomma, gira rigira, adesso sono finito qua. Allora, io chiedo a voi per piacere, magari a Milane, Milane che è là, sì, che è l'unico che ha vero stipendio di noi, vai, allora diciamo se magari può, sì, pagare mia cauzia e... No, come cauzia? Cauzia Milane, dai, cauzia Milane. E quanto, dai, quanto è questa cauzia? Beh, quanto è cauzia? Quanto paghi tu per Signorini Allegri in un mese, Milane, oh, dai. Questo è vero, è inutile negarlo. Intanto non sai quanto spendo per Signorini, no? Allegri. Mia cugina mi dice tu, Milane, ma dove ti fai beccare con mani marmellata? Dai, paga 500 euro, siamo amici. Dai. 500 euro? Dai, Milane. Va bene, Milane. Ratko, grazie. Grazie, vedremo se possiamo recuperare la cifra richiesta. Allora, manco per sogno, ma 500 euro, ma puoi, sì, puoi, sì, rinunciare a una delle, no, tue, ma uscite, magari se gli ascoltatori vogliono provvedere, c'è una cauzia qua da pagare. Puoi rinunciare a una delle tue cene eleganti con queste signorine che fai normalmente. Stavamo, Ale, parlando qui a Platone di Unione Europea. Esatto, esatto. Abbiamo detto che Matteo Renzi, Renzi che presiede il semestre, presiede questo semestre di presidenza dell'Unione Europea. Ha detto che siamo la generazione Telemaco al potere, no? Mm-hmm. Ha fatto questo discorso, è stato apprezzato per esempio anche da Nigel Farage. Conosci, beh, Farage? Certo, quasi il sodale, quasi di Grillo. Più o meno. L'amico è così, di Grillo. Sì, è l'amico di Grillo. Che ha detto, Renzi, bravino e funny. Divertente. Funny, divertente. Gli do 7 in pagella. Mm-hmm. Vabbè, questo è il voto di Nigel Farage a Renzi. Per Renzi, insomma, forse si aspettava altri apprezzamenti da altre parti, Renzi. O dici che è stato contento? Ma secondo me è stata un po' così una... Ironica, una stilettata. Una stilettata ironica, sai che lo humor britannico... Funny vuol dire, insomma, sì, è divertente, ma non è bravino, non, esatto, è uno statista. Bravo, così, bravino, clap clap. Chissà perché siamo sempre un po' presi in giro. Ti ricordi i tempi di Berlusconi con la Merkel, no, e Sarkozy? Così che adesso invece che adesso ha poco da ridere. Poco da ridere. Ma abbiamo la canzone che avevamo lanciato all'inizio. Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. A inizio puntata abbiamo detto che Danilo Vizzini, l'ottimo Danilo Vizzini, avrebbe composto una canzone qui durante l'arco della puntata. Vediamo cosa riscuoterà un grande successo. Senti, senti, senti. Sentite. Renzi vuole imporsi, imporsi, imporsi, ma l'Europa chiede sforzi, sforzi, sforzi, tra il mondiale preso a mercy, mercy, mercy, è un paese di concorsi, incorsi, incorsi, brucia ancora Chiellini, ma brucia più ai cittadini, yeah. Sì, sì, sì, sì, ancora. Ancora, ancora. Hai visto che hai visto? Brucia, dai, ancora, dai, ai cittadini. Questa è satira di alto livello. Hai visto? Sì, assolutamente. Dai. Noi potevamo fare... Ammirevole in un'ora. In un'ora è che vuoi di più. Ma Europa a parte, l'Europa a parte. Insomma, poi la vita, sì, dei cittadini si svolge tutti i giorni, con la vita quotidiana anche di tutti i giorni. Per, esatto, esempio, a Cosenza cosa è successo? È successo un terribile episodio in una scuola. Sì, una ragazza è stata bocciata e allora i genitori della ragazza bocciata sono andati a parlare con la vicepreside Rosanna Gallucci, che tra l'altro io ho avuto ospite in settimana e l'hanno proprio picchiata proprio, ma perché i genitori spesso non accettano queste bocciature. E noi abbiamo al telefono un vicino di casa dei due aggressori, vediamo cosa da dirci. Buongiorno, sono Leonardo Manera, ci sente? Buongiorno Manera, sì, sì, guardi, buongiorno. Non ho parole, è stata una tragedia, ma se solo penso che poi qui dove giocavano i miei figli ogni giorno si è consumata una sciagura così, due onesti lavoratori, persone che conoscevo benissimo, trucidate e uccise in quel modo. Mario, Luisa, io vi porterò sempre nel mio cuore. No, guardi che forse lei ha informazione sbagliata, non c'è stata nessuna tragedia, non hanno ucciso nessuno. Come non ha ucciso nessuno? Ma scusi, ma non è la villetta degli orrori? No, non è la villetta degli orrori, ma lei non è il vicino di casa? Cioè, sì, sono il vicino di casa, cioè mi sono trasferito da poco, però forse mi è sfuggito qualcosa, ma... No, infatti lei non ha per nulla, mi lasci dire, l'accento di Cosenza. Beh, adesso cosa c'entra l'accento? L'accento, cioè, ce l'ho così perché io sono un aspirante attore e siccome il mio insegnante di dizione purtroppo è di San Bruson, provincia di Padova, e... Sì, ma cos'è successo? Sì, no, è successo, adesso dobbiamo riepilogare noi e lei, che una vicepreside è stata malmenata, picchiata dai genitori di una studentessa bocciata. Ma malmenata? La povera, sì, donna. Poi io tra l'altro conosco benissimo perché siamo cresciuti assieme. Anzi, pensi che lei fin quando era piccola, quando gli chiedevi cosa vuoi fare da grande, lei diceva la vicepreside, neanche la preside. Si pensi la modestia di questa donna bastonata così. Ma io guardi, ci vorrebbe la pena di morte per certe persone. Io per certe gente metterei il cappio, questo. Un po' eccessivo, quindi lei manderebbe al patibolo i suoi vicini di casa? No, cosa c'entrano i miei vicini di casa? Sono stati loro. Ah, sono stati loro? Sì. Vabbè, addio, pena di morte. Cioè, magari una multa, non lo so. Poi adesso va a vedere, è picchiata, magari ha dato una carezzetta un po' più calorosa, così sa com'è, insomma. Insomma, Le hanno dovuto mettere il collare, la povera vicepresidente. Ma la museruola dovevano mettere una così, ma certo, far finta di farsi picchiare da due brave persone che sono i miei vicini di casa, che io conosco benissimo, per poi millantare. Sa cosa le dico? Ci vorrebbe la pena di morte per certi millantatori, questo dico io. Ecco. Ma senta, a proposito, quando è che venite a fare l'intervista vera con le telecamere? No, noi siamo, non è una televisione, noi siamo una radio, Radio 24. Una radio? Ma come una radio? Ma vai Mona Manera, ti anche i vicini di casa, va. Ecco, vedi che quando, no, quando sono dove c'è la televisione, terribile la TV, La televisione è terribile, dove c'è la televisione si va perché si spera di essere ripresi dalle telecamere. Questo è uno dei danni della televisione, caro Alessandro Milan. È abbastanza incredibile. Tra l'altro, a proposito di televisione, quando viene qua la televisione? No, esatto, no, noi siamo la radio, non è la televisione. A proposito di TV, siamo qui con un nuovo ospite, il professor Limoncelli, che è uno storico e critico televisivo. Allora, professore, intanto ha visto cosa produce la televisione, personaggi che vanno ovunque l'eco dei mass media li porta. Ma innanzitutto buongiorno. Buongiorno. Ma naturalmente, lei rimarchi per cortesia storico e critico televisivo. L'ho detto, storico, Limoncelli, critico televisivo e storico. Ma diciamo che oggi la televisione, ma i mass media in generale, si caratterizzano per la ricognizione del bisogno emergente della domanda non soddisfatta in maniera articolata ma non totalizzante, non dando certo per scontato, nella misura in cui ciò sia fattibile, una, come dire, apocatastasi a monte a valle della situazione contingente, sì, ha capito? Sì, sì. Oddio, praticamente sì. Che cosa significa? Ma non significa assolutamente nulla. Ho detto una montagna di stronzate, di puttanate senza nessun significato. Ma mi gratifica il fatto che voi state qui ad ascoltare il professor Limoncelli, storico e critico della TV. Storico e critico della TV. Diciamo qualche parola in latino anche. Iusque tandem, Milan abutere pacientia nostra. Sì. Mutatis mutandis, sì. In medio stat virtus. Ecco, sì, giusto, sì, per rimarcare, sì, che sono uomo di cultura. Infatti, mi sembra. Cultura, grande cultura. Grazie, sì, professore. Apocatastasi. Direi, ecco, cos'è la focatastasi. No, effettivamente, vedi che ma non ho. Andiamo avanti con l'intervista, ecco. Il mio tempo è prezioso. Infatti, veniamo alla televisione. Io ogni settimana qui a Platone le chiederò dove era il canone, ma anche dove non era il canone, intendendo con ciò per cosa valeva la pena pagare o non pagare il canone. Ecco, per esempio, questa settimana dove non era il canone? Ma questa settimana il canone non era sui telegiornali. Ah. È inutile ascoltare telegiornali che ripetono uno dopo l'altro tutti le stesse notizie che sono super, perché ormai le persone apprendono le notizie in tempo reale da internet o sugli smartphone. È un po' vero questo. Ma naturalmente è vero, sta dicendo il professor Limoncelli. Ah, certo, non scusi, un qualsiasi parvenu. Il telegiornale ha senso solo se a condurlo c'è una bella smandrappata ammiccante, no, con due belle due bombe, no, al posto, no, del seno, delle vere bombardiere, ecco. No, una bella smandrappata, una bombardiera a condurre il telegiornale, come purtroppo raramente accade solo su Italia uno, no, che è il mio telegiornale preferito, proprio perché a condurlo c'è qualche smandrappata, qualche bombardiera ammiccante sulla quale vorrei appoggiare la mia portaerei. No, ma professore, mi lasci dire, non sia volgare, non sia volgare, io appunto, ecco, latino, non sia volgare, vabbè, insomma, le smandrappate. Ma anche lei è un appassionato di bombardiere, mi sembra di capire. No, veniamo alla domanda lei successiva, la sua portaerei. Andiamo avanti. Senta, invece questa settimana dove era il canone, cioè per quale trasmissione valeva la pena di pagarlo questo canone? Finalmente una domanda interessante, di quelle che mi aspetto da lei, che trovo assolutamente mi abbia fatto fino ad ora le domande insignificanti che non rendono ragione la sua qualifica di giornalista, se realmente storico. È giornalista lei. Sì, allora, lo sono. Questa settimana il canone era su una piccolissima emittente del digitale terrestre, sì. Tele Eros 69, 69 mi lasci dire non è un numero a caso, dove c'erano su questa Tele Eros 69 due smandrappate, due bombardiere che si accoppiavano selvaggiamente con cinque stalloni, una con due, l'altra con tre. Ma dove stava il canone? Appunto, scusi, dove stava? A parte che le domande le faccio io, dove stava il canone, professore? Stava, mi lasci dire, nel fatto che gli spettatori potevano telefonare in diretta e suggerire a quelle due smandrappate bombardiere le posizioni da assumere, tre con due, due con tre, una con cinque. Un vero esempio di televisione interattiva ed educativa che io seguo con grande interesse. Sì. Seguo sempre assiduamente. Molto, molto educativa. Senta, professor Limoncelli, la ringrazio. Grazie a lei. Grazie. Per questa intervista spiacevole e discutibile. Mi aspettavo di più da lei, Milan. Vabbè, la prossima volta magari, se ci sarà, perché a questo punto, alla prossima volta. Grazie a voi e ricordate, Tele Eros 69. Ah, Va bene, la ringrazio professore, grazie davvero. 69. Alla prossima settimana. Un avanti, sopra, sotto. Bene, siamo arrivati alla fine di questa prima puntata di Platone. Potete scriverci a platone@radio24.it. Ringrazio Peter Bescapè in regia e vi diamo appuntamento a sabato prossimo alle 9 in punto, più o meno. Ciao! Radio 24 vi ha presentato Platone, la caverna dell'informazione, di Leonardo Manera, con Alessandro Milan, Luca Clobas e Danilo Vizzini.